Ma da più di un secolo il Friuli vanta una bottega di organari, a Camino al Tagliamento. La bottega fu fondata da Valentino Zanin nel 1827, continuata dal nipote Beniamino e perfezionata dai figli di quest'ultimo, che recentemente hanno montato un loro organo a Teheran. Bottega artigiana nel senso più schietto della parola. Basti sapere che nel cortile della loro casa, popolato di bipedi, si può assistere alle loro fughe ad ali aperte, quando le note di una fuga di Bach scendono dal piano superiore. Forse il Tagliamento, caro e proprio in questi luoghi alla giovinezza di Ippolito Nievo, concilia col suo murmure l'arte dei suoni. Incredibili le ristrettezze che gli Zanin ebbero a superare, onesti e scrupolosi come sono. Beniamino, costruttore del primo organo espressivo in Italia, adoperava da ragazzo un cucchiaio forato perché non asportasse tutto il liquido dall'unica ciotola che doveva sfamare quattro bocche. Che diamine! La polenta, e scarsa per giunta, era buona anche intinta nel latte. Figlio di poveri contadini di Codroipo, anche l'autore della musica che avete ascoltato e che ascolterete, il sacerdote Giovanni Battista Candotti, che ebbe a suo allievo Jacopo Tomadini, entrambi organisti e maestri di cappella nel Duomo di Cividale. Nel commiato, L'Emigrant di Arturo Zardini. Un dolor dal cur mi ven, tutti o devi abbandonà. Ma dell'autore di Stelutis Alpinis vi diremo in altre trasmissioni a voi dedicate, come diremo dei mosaicisti di Spilimbergo, dei ceramisti di Pordenone, dei coltellinai di Maniago. Alla fine, un figlio di emigranti, nato a Coderno di Sedeliano 36 anni fa, oggi uno dei più personali poeti d'Italia, predicatore nel Duomo di Milano, padre David Turoldo dei Servi di Maria, è al microfono per voi, o amici lontani. Siete i più vicini e non i più lontani. Sono anch'io di una famiglia di emigranti e vivo spiritualmente con tutti questi fratelli dispersi. Tutta la mia infanzia è caratterizzata da partenze ed arrivi. Eravamo anche noi 9 fratelli. Ognuno di noi è un'immagine viva del Friuli. Quali sono queste immagini, queste caratteristiche del nostro Friuli? Un focolar che lasciamo alle spalle, attorno al quale i fratelli più piccoli e i vecchi si raccoglieranno per pregare e per pensarci. È l'altare della casa. Noi altri invece avremo con noi solo il fagotut, il sac, neppure una valigia, qualche cosa di più umile, perché siamo tra la gente più povera. E dentro il sac, che cosa ci ha messa la nostra madre, o la nostra fidanzata, o la nostra sorella, qualcuno dei più cari? Una coronute, una medaglietta forse, qualche cosa di religioso che ci accompagni. Queste sono le memorie più care, focolare, un sac e una corona. Che sia sempre legata a questi ricordi la nostra vita. Thank you. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, artigianato armonioso. Testo di Chino Ermacora. Hanno partecipato alla trasmissione Padre Davide Maria Turoldo, il professor Eligio Ciriani, violino, il maestro Don Albino Perosa, organo, e il trio udinese Lino Battistella, tenore, Gino Pupil, secondo tenore, e Enrico Carnielli, basso. Le nostre prossime trasmissioni di Friuli nel mondo, dedicate agli emigrati, avranno luogo martedì 28 aprile per il Nord America e giovedì 30 aprile per l'America Latina. Ripetiamo, martedì 28 aprile per il Nord America e giovedì 30 aprile per l'America Latina.